Caffè Cornetto con Peppe e Chicco, a cura della redazione di Radiograd. Buongiorno a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Caffè Cornetto. Oggi è 28 marzo del 2026, all'indomani di un riuscitissimo esito elettorale, referendario più precisamente, che ci ha dato tante buone vibrazioni, positive vibrations, diceva qualcuno più esperto di noi, soprattutto in termini musicali. Oggi però siamo costretti un po' non a fare festa come magari tutte e tutti vorremmo, bensì a ragionare su quello che sta avvenendo a livello globale. Per farlo, anche oggi abbiamo pensato di proporvi un particolare vestito che abbiamo cucito addosso a questa rubrica settimanale, riprendendo un convegno che c'è stato mercoledì passato, quindi solo tre giorni fa, il 25 di marzo, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università della Campana Luigi Vanvitelli, che ha visto importanti relatori discutere del tema economia di guerra e diritto alla pace. In particolare abbiamo avuto, tra tanti interventi del pubblico, come relatori diretti in ordine Alberto Negri, che tutte e tutti conoscete, editorialista del Manifesto, inviato di guerra, Stefano Lucarelli, professore di politica economica presso l'Università di Bergamo, e Pasquale De Sena, professore di diritto internazionale presso l'Università di Palermo. Tutti i nostri grandi amici della nostra radio, li avete sentiti articolare ragionamenti su tanti temi. A noi sembra importante riportare in questa rubrica le loro relazioni. Quindi lascio la parola alle registrazioni del convegno. Troverete ogni singolo intervento, grazie a Peppe, che ovviamente è fondamentale in tutto questo lavoro, suddiviso appunto per ogni singolo relatore. Ringrazio tutti e tutti ancora e buon ascolto. Quando abbiamo pensato di organizzare questa giornata seminariale, in realtà molto tempo fa, la questione della guerra non era così pesante come la stiamo vivendo un po' tutti quanti in questo periodo, sebbene, ecco, in molti di noi fortunatamente lo facciano in maniera indiretta. E siamo arrivati al 25 marzo e le cose purtroppo sono andate in una direzione non auspicata, non auspicabile, ed è per questo che magari il seminario di oggi assume anche un valore, almeno dal mio punto di vista, superiore, perché cerca di dare un'interpretazione di quello che è un fenomeno che almeno la nostra Costituzione vorrebbe ripudiare in tutte le sue forme, ma che continua a essere sempre più presente. E questo è un problema di cui dobbiamo farci carico noi in quanto istituzione, e ovviamente chi è più giovane di me, faccio riferimento agli studenti di qualsiasi grado, avranno la possibilità di viverla, spero, non sulla propria pelle, ma almeno indirettamente per un periodo. E dicevo prima, cercavo di dire il motivo che ci ha spinti a organizzare una giornata seminariale di questo tipo, è perché i nostri studi, sia in ambito economico che in ambito giuridico, per quanto appunto non siano di mia diretta competenza, ci portano a pensare che i tempi che viviamo saranno dei tempi in cui l'elemento guerra deve essere preso seriamente in considerazione come conseguenza di alcune delle tendenze che normalmente si vanno plasmando. E per questa ragione noi abbiamo pensato di poter trattare l'elemento così, diciamo, universale come quello della guerra, con una triplice prospettiva, proprio per non fornire una visione unica degli eventi che in queste ore, in questi momenti, vanno a modificare probabilmente quelli che saranno molti degli aspetti paradigmatici del futuro, ma appunto fornendo una triplice visione di un fenomeno che ha attraversato purtroppo la storia umana, e noi speravamo di essercene liberati un po' di anni fa, ma così evidentemente non è, Ed è per questo che abbiamo chiamato come nostri ospiti e relatori, ovviamente grandissimi ringraziamenti vanno a tutti e tre, faccio riferimento al dottor Alberto Negri, che vedete qui sopra di me in collegamento. Alberto Negri, probabilmente lo conoscete, giornalista, editorialista del Manifesto, e soprattutto, è il motivo perché l'abbiamo invitato, è uno che la guerra l'ha seguita sin dagli albori della propria carriera, in particolare in Iran, ne abbiamo discusso solo qualche settimana fa, proprio della sua esperienza personale. Poi abbiamo con noi Stefano Lucarelli, che è questo signore qui alla mia destra, un grande amico prima di tutto, che collega, insegna politica economica presso l'Università di Bergamo, nonché Pasquale De Sena, che vedete alla fine della nostra cattedra, che si occupa ovviamente di aspetti giuridici, essendo docente ordinario di diritto internazionale presso l'Università di Palermo. Con tutti e tre io ho avuto il privilegio di discutere molte volte di aspetti inerenti alla guerra, ripeto, non focalizzandoci esclusivamente sui fatti contemporanei o momentanei o contingenti, bensì su proprio come questo sistema tenda naturalmente a generare il cosiddetto tempo di Ares, che è quel volumetto che sta sfogliando tra l'altro in questo momento Stefano Lucarelli, che è autore appunto del libro di cui sto parlando. E anche con il collega dell'Università di Palermo, Pasquale De Sena, abbiamo ragionato anche sul significato del diritto internazionale in un momento in cui appunto il diritto internazionale sembra un po' scomparire dai radar della politica, di quelli che contano, di quelli che poi la guerra la stanno mettendo in atto, che non è semplicemente quella sequela di immagini che vediamo in televisione, ma è la ragione per cui esiste un genocidio ancora irrisolto a Gaza, che continua quotidianamente, una guerra i cui limiti non sono ben noti, anche perché chi la sta portando avanti continua a negare nel pomeriggio quello che ha affermato la mattina, e faccio riferimento a Donald Trump, a tutta l'amministrazione americana, nessuno escluso, e ovviamente anche a Israele, quindi parliamo di Netanyahu, di tutto il governo che in questo momento appoggia, e forse questo ce lo racconterà ancora meglio Alberto Negri, data la sua esperienza, questo pantano che si va verificando e plasmando dalle forme che veramente è sempre più difficile comprendere. Però siccome il tempo è tiranno e l'attenzione di qui con noi, e vi ringrazio tutti uno per uno per essere venuti ad ascoltare appunto questa iniziativa seminariale, io lascerei immediatamente la parola ad Alberto Negri, che mi ha chiesto di intervenire per primo proprio perché ha degli impegni personali e quindi dovrà lasciarci un pochino prima, a cui chiederei in 20 minuti di fare un'operazione molto difficile, ma io sono sicuro che lui è in grado di farla data la sua esperienza, e parlandoci del significato della guerra che può assumere per uno che fa la sua professione, ossia quella di giornalista, e come la guerra sia poi un elemento quasi catartico all'interno della storia dell'umanità. Lui ne ha viste tante, partendo proprio dall'Iran. E concluderei chiedendogli qualcosa che spesso gli vado chiedendo, sia delle considerazioni su quali possano essere le prospettive di questo conflitto, che non è l'unico, questo va sempre detto e sottolineato, ma le cui proporzioni ogni giorno sembrano diventare sempre più angoscianti. Quindi io, ringraziando tutti ancora una volta, lascio la parola al dottor Negri. Prego Alberto. Buongiorno a tutti voi, grazie Francesco per questo invito, grazie a tutti voi. È la guerra, signori, se le guerre non esistessero non ci sarebbero neppure gli inviati di guerra, i giornali e i media non li pagherebbero, no? Siccome lo fanno da 45 anni vuol dire che di guerre ce n'è sempre in abbondanza nel globo e ci saranno sempre, inutile. Farsi delle illusioni, no? Certo, le dimensioni globali, tu prima accennavi il fatto che io comincio nel 1980 con la guerra Iran-Iraq, le proporzioni cominciano a essere sempre maggiori, sempre più diffuse, anche se fino a un certo punto, guardate, quando ci fu la guerra Iran-Iraq, il petrolio arrivò a costare a un certo punto $45-50 al barile, che i valori attuali sarebbero $150-160-170, no? Quindi anche in altre epoche, voglio dire, c'è stato l'esplosione dei prezzi, sono state delle conseguenze globali dai conflitti, da certi conflitti, soprattutto quelli che si svolgono dove ci sono le materie prime energetiche. Ma venendo all'attualità, cioè alla situazione di oggi, questa è una guerra abbastanza particolare rispetto a quelle che abbiamo visto in passato nel Golfo, che erano state tutte in qualche modo ampiamente preannunciate, per esempio con coalizioni internazionali nel 91, quando Saddam Hussein invase il Kuwait, addirittura ci fu una coalizione con 40-50 paesi, no? Nel 2003, quando si attaccò di nuovo l'Iraq, c'era anche lì una coalizione non così ampia come quella precedente, ma che comunque comprendeva diversi paesi. Questa volta la guerra è arrivata, come dire, apparentemente all'improvviso, nel senso che Israele e gli Stati Uniti hanno attaccato il 28 febbraio senza neppure fare una comunicazione neppure agli alleati più stretti e alla NATO. Quindi in qualche modo tutti sono stati colti di sorpresa. Pensate al nostro ministro della difesa Crosetto, che si è trovato proprio quel giorno a Dubai. Ecco, quando vedete che le leadership si fanno cogliere di sorpresa, pensate un po' noi gente comune, no? In realtà questa guerra incubava da parecchio tempo, anche perché chi è un po' più attento allo svolgersi degli eventi della regione aveva perfettamente capito che quel conflitto dei 12 giorni del giugno scorso non aveva portato assolutamente a risultati definitivi e soprattutto poi non aveva avuto, come dire, un'alternativa diplomatica. Gli Stati Uniti hanno lasciato il tavolo perché l'hanno lasciato loro, non gli andava di stare a discutere con il regime di Teheran, e quindi sulla spinta di Netanyahu hanno deciso questo conflitto, perché Netanyahu aveva già deciso che bisognasse fare questa guerra, tant'è vero che ha attaccato per primo, tant'è vero che i bersagli della leadership iraniana sono stati indicati proprio dagli israeliani. Ma poi ne abbiamo una prova. La prova provata sono le dimissioni di Joe Kent, il capo dell'agenzia antiterrorismo americana, che nella sua lettera di dimissioni ha detto molto chiaramente: questa guerra è stata voluta da Israele, dalla lobby israeliana negli Stati Uniti. In due righe ha detto tutto quello che bisognava sapere. Il problema, appunto, che siccome probabilmente è stata forse programmata male o è stata fatta contro indicazioni del Pentagono e anche della CIA, no? In questo conflitto l'impressione è che qualcuno si sia impantanato, anche perché forse non ha guardato neanche la carta geografica. E c'è lo stretto di Hormuz. Sono 50 anni che ogni volta che si parla di guerre del Golfo si parla delle conseguenze sul petrolio, sulla navigazione dello stretto di Hormuz. Insomma, sono cose su cui sono stati scritti decine di libri, quindi bastava anche sfogliare un sunto su Wikipedia che forse si sapeva. Eppure il presidente americano si è dimostrato, non si sa fino a quanto realisticamente, sorpreso delle conseguenze economiche di questo conflitto. Tra l'altro, rispetto al passato, le monarchie del Golfo, che si affacciano appunto su quello che viene chiamato non a caso Golfo Persico, no? Sono entrate ancora più di prima in quella che è la filiera economica e industriale mondiale, perché si sono sviluppati economicamente, non c'è solo il petrolio e il gas, ma ci sono altre materie prime che affluiscono sui mercati, come i fertilizzanti e via discorrendo, che in qualche modo influiscono sulle quotazioni internazionali. Tra l'altro è una guerra che ha avuto subito riflessi su un altro conflitto, quello in Ucraina, perché la Russia di Putin, che vendeva un mese e mezzo fa il suo petrolio all'India con lo sconto $22 al barile, si è visto regalato una bella quotazione oltre i $100 e quindi può incassare altri soldi e non ha così fretta forse di chiudere il conflitto con Kiev. Quindi le implicazioni sono grandi, eccetera, ma sono anche dirette proprio anche su altri conflitti. È molto interessante notare che adesso, cioè, si sono impantanati, gli Stati Uniti si sono impantanati perché questa guerra qui, da una guerra punitiva nei confronti del regime di Teheran, che doveva addirittura arrivare in alcuni scenari prospettati a Washington o a Tel Aviv di cambio di regime, è diventato una guerra in realtà per, come dire, la riaffermazione degli Stati Uniti come superpotenza mondiale, perché non è che possano andare via così. Cioè, signor Trump pensa di chiudere questo conflitto con un negoziato con l'Iran. Mi auguro che sia così, mi auguro che le cose che dica siano in parte vere, perché questo signore ormai non crede quasi più nessuno, forse neppure i suoi più stretti consiglieri, no? Ma certamente non c'è dubbio che per una potenza, superpotenza globale come gli Stati Uniti, non è che possono andare via dal Golfo senza avere un minimo di controllo e di influenza sulla navigazione nello stretto di Hormuz, anche perché domani qualcuno si alza la mattina e dice: vabbè, chiudiamo Suez oppure lo stretto di Malacca, no? È evidente che una superpotenza come quella ne via così. Quindi non hanno molte alternative se non quella della diplomazia o l'uso della forza. L'uso della forza vuol dire continuare la guerra e probabilmente farla diventare ancora più devastante di quella di oggi. Ecco perché si è infilato in un pantano. Oltretutto, come più o meno capita quasi sempre discorrendo con gli occidentali capiscono poco di quello che succede oltre il loro mondo di frutta candita, cioè pensano che gli altri fanno le guerre a tempo. Trump vuol fare una guerra a tempo, in modo che scada, che finisca molto prima di quello che cominci la campagna elettorale, che è già cominciata, di mid-termine, mezzo termine, no? Cioè, siamo, come dire, condizionati da questo, ci preoccupiamo del rialzo dei tassi, delle trimestrali delle grandi compagnie, come se, cioè, tutto il mondo ragionasse come ragioniamo noi. Non è così. Guardate, c'è una vecchia frase che hanno ripetuto tante volte i talebani, quando gli americani, proprio loro, insieme alla NATO, sono arrivati in Afghanistan, no? E li guardavano e gli dicevano: vedete, voi avete l'orologio, ma noi abbiamo il tempo. E ragionano su tempi diversi. E alla fine chi ha avuto ragione? Hanno avuto ragione i talebani, perché 20 anni dopo l'invasione dell'Afghanistan, i talebani sono ritornati al potere a Kabul, no? Ecco com'è andata a finire. Se non ci fossero state altre guerre successivamente, altri episodi, saremmo ancora qui a discutere di quell'agosto 2021, quando, anzi, quel luglio 2021, quando gli americani abbandonano la grande base militare di Bagram, che era stata una base sovietica, no? E chiudono, in 2 giorni chiudono la base, se ne vanno dalla sera, praticamente dalla sera alla mattina, senza avvertire neppure quella volta gli alleati della NATO, e lì si capiva che Kabul sarebbe caduta 10 giorni prima. Quando se ne vanno da lì si capisce che Kabul è caduta, infatti i talebani tornano praticamente al potere quasi senza neppure sparare un colpo. Ecco perché rivedi ricompiere sempre gli stessi errori, che sono anche errori proprio culturali. La questione del tempo è fondamentale. Qui vogliono andare, vogliono fare i weekend, vogliono fare le vacanze. Ma signori, vedete, io come inviato di guerra non ho mai fatto una vacanza in vita mia. Per 50 anni, 45 anni della mia vita, ho provato ad andare in vacanza, ma quasi mai ho potuto farle tutte, perché ogni tanto si interrompevano e una volta dovevi partire per Mogadiscio, per la Somalia, un'altra volta per il Sudan, un'altra volta dove andare in Medio Oriente, un'altra volta dove andare in Kurdistan, un'altra volta in Mozambico o in Angola o in Algeria, no? C'è proprio un problema grosso, cioè questi studiano, vanno all'università, fanno dei dottorati, eccetera, ma non capiscono alla fine la questione, non sanno capire chi hanno di fronte. Gli iraniani non so quanto resisteranno questa volta o che cosa, ma è un regime che lotta per sopravvivere, non ha un altro posto dove andare. Quindi resisteranno fino a quando potranno, fino all'ultimo uomo. E quando non potranno più resistere contro la potenza americana o israeliana, decideranno che il paese può andare a ferro e fuoco. E quindi che cosa succederà? Succederà quello che avete visto fare altre volte, in Siria, in Iraq, in Libia. Cioè questi paesi si dissolveranno come stati, no? Mica diciamo delle novità, per carità, eh? Vedete che anche che l'Iraq subito è diventato un mezzo campo di battaglia anche di questo conflitto. Ma dove va l'Iraq? Pensate che 23 anni dopo la caduta di Saddam Hussein, l'Iraq non ha neppure un'aviazione. E come fa uno Stato a essere uno Stato e controllare i propri confini e il proprio territorio se non ha manco un'aviazione? Perché gli americani gli hanno impedito di avere un'aviazione. Conclusione. Qual è l'obiettivo degli Stati Uniti? Qual è l'obiettivo degli israeliani? L'obiettivo degli americani? Non lo conosciamo tanto perché è sempre molto, molto confuso, però l'obiettivo di Israele, che è la vera superpotenza regionale, l'abbiamo capito bene, è quello di disgregare tutti gli stati della regione che hanno un apparato militare industriale, di ridurlo a zero e poi si vedrà. Però non potranno più essere concorrenti o competitivi con lo stato ebraico. È successo in Siria, avete visto quando è caduto Bashar Assad, è scappato via, è andato su questo Ashara, allora non gli è importato niente chi c'era. Hanno cominciato a bombardare per un mese e mezzo e hanno fatto fuori sistematicamente tutti gli impianti militari, tutte le caserme, tutti gli stabilimenti bellici. Oggi praticamente la Siria è un colabrodo, praticamente Ashara manco il sindaco di Damasco. Se esce fuori da quel palazzo presidenziale sopra Damasco e fa qualcosa o dice qualcosa contro Israele, Israele lo fa secco subito con un colpo. Cioè bisogna anche rimandare un missile. Lo fa secco con un colpo secco. Questa è la situazione. Casomai dobbiamo chiederci quale sarà la prossima guerra. Vediamo intanto come finisce questa. Ma già questo conflitto ha messo in luce un paio di cose, no? Prima di tutto, le potenze regionali esistenti ancora in piedi, come la Turchia, l'Arabia Saudita, fino a un certo punto potenza, hanno capito tutti quello che già sanno da tempo, e a tutti serve una bomba atomica come deterrenza per non farsi attaccare. Quindi il problema, dopo aver distrutto l'arsenale o comunque reso inutilizzabile l'arsenale atomico o paraatomico dell'Iran, sarà quello di rendere impossibile agli altri di procurarsi l'atomica, soprattutto alla Turchia, che è diventato il numero due nella lista del Mossad dopo Khamenei. Perché i turchi sono già in Siria, sono influenti, vogliono essere influenti sulla questione di Gaza e poi c'è soprattutto la questione del Mediterraneo orientale, dove già abbiamo uno schieramento preciso, no? Perché praticamente Grecia e Cipro sono diventate, militarmente parlando, già delle colonie israeliane, hanno firmato accordi per oltre 30 miliardi di euro sulla pista dell'aeroporto di Nicosia, ci sono i droni israeliani, è un'alleanza a tre in funzione antiturca e che ha come obiettivo fondamentale quello dell'egemonia sul Mediterraneo orientale, dove ci sono i giacimenti di gas offshore, dove ci sono rotte di navigazione estremamente importanti verso il canale di Suez. Ed ecco che già abbiamo gli elementi per un prossimo conflitto. È per questo che pagano gli inviati di guerra, perché di guerra ce ne saranno sempre. Allora, noi ringraziamo il dottor Negri per le profonde riflessioni che provengono dal campo, quindi hanno un valore per certi versi ancora superiore rispetto ad altre considerazioni che possiamo fare noi attraverso i nostri studi. Però un po' quello che emerge dalla relazione del dottor Negri è una forma di ineluttabilità della guerra, di consecutività di eventi bellici, un po' come se fossero inevitabili e legati a uno sviluppo del modo di produzione capitalistico che determina. Tu poi hai anche scritto un libro insieme a Emiliano Brancaccio, nostro collega, e Raffaele Giammetti, che discuteva di questi temi, perché giustamente il dottor Negri parlava della riaffermazione dell'egemonia statunitense come movimento scatenante, no, degli ultimi anni. Allora tu ricordati questa domanda, adesso ti invito a venire qui magari mentre discuti, ti ricordi di questa domanda. Buon pomeriggio. Io vi illustro un pochino lo schema concettuale che cercherò di proporvi in questi 15 minuti, 20 minuti. Ho pensato di dividere la mia comunicazione in quattro tappe. Quindi la prima tappa servirà per cercare di mettere in luce nella prospettiva che ho provato a costruire una tendenza di fondo che possiamo leggere soprattutto da alcuni dati economici, che mette poi in moto dei meccanismi di destabilizzazione istituzionali, in particolar modo dei meccanismi di destabilizzazione nel campo delle relazioni internazionali. La seconda tappa che vorrei attraversare insieme a voi, almeno insomma in prima approssimazione, e vorrei mostrare come questi processi destabilizzanti hanno delle ricadute precise sul piano, diciamo, geografico. La terza tappa è una domanda alla quale proverò a rispondere con non più di due esempi, cioè come si colloca il nostro paese in questo scenario. E l'ultimo punto, in cui spero di riuscire ad alzare la palla al professor De Sena, è un cenno a una che considero le infrastrutture necessarie per poter ritornare a parlare in modo appropriato di ordine del mondo. E mi riferisco a un qualcosa di particolarmente complesso, ma che cercherò di implicitamente e in qualche caso anche esplicitamente richiamare nelle tappe precedenti, che è il sistema monetario internazionale. Quindi la mia tesi è che i meccanismi che destabilizzano le relazioni internazionali hanno molto, molto a che fare con questa cosa che si chiama sistema monetario internazionale. Il primo punto è che il mondo economico, dal punto di vista internazionale, è fatto innanzitutto di scambi commerciali. E noi abbiamo vissuto in un mondo, soprattutto a partire dal nuovo millennio, in cui questi scambi commerciali sono stati particolarmente intensi e rispondevano ad una certa logica. Cioè è stata costruita, diciamo, una fabbrica del mondo sempre più fuori dai confini dei paesi occidentali, in particolar modo sempre più fuori dai confini degli Stati Uniti e dei paesi europei, per collocarsi in altri paesi che abbiamo iniziato a chiamare in un modo diverso. Prima li chiamavamo paesi sottosviluppati, poi li abbiamo iniziato a chiamare paesi in via di sviluppo e poi ci siamo resi conto in poco tempo che questi paesi in via di sviluppo maturavano tassi di crescita del prodotto interno lordo e in alcuni casi persino del prodotto pro capite molto più rapidi, molto più alti dei paesi che continuiamo a chiamare paesi sviluppati, con questa sorta anche di trappola semantica nella quale siamo caduti noi tutti. Il punto è che si è sempre più costruito un mondo in cui i paesi che oggi crescono più rapidamente, alcuni di questi sono raccolti nell'acronimo BRICS, Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, che oggi è diventato BRICS Plus, perché si sono aggiunti altri paesi, per esempio gli Emirati Arabi, per esempio l'Egitto, per esempio l'Iran, e per qualche mese sembrava che anche l'Arabia Saudita avrebbe aderito a questo club. Questi paesi sono stati caratterizzati, gli economisti parlano di surplus crescenti della bilancia dei pagamenti. Che cosa significa? Che le esportazioni sono superiori alle importazioni. Come sapete voi tutti, il mondo è un sistema chiuso. Se ci sono paesi che esportano di più di quanto importano, esistono anche paesi che importano di più di quanto esportano. Ora, i paesi che hanno maturato deficit crescenti si concentrano soprattutto nell'arco occidentale. Ora, questo significa anche, e questa è la seconda parte del ragionamento del sistema economico delle relazioni internazionali, che se si maturano situazioni di deficit commerciale, in teoria non si hanno le risorse monetarie sufficienti per pagare le importazioni, perché tu, se importi di più di quanto esporti, come se spendessi di più di quanto guadagni. Quindi, a fronte di uno squilibrio commerciale, cioè di una situazione che o è di deficit o è di surplus, ci sono anche delle speculari situazioni finanziarie. Cioè, quei paesi che hanno situazioni di deficit commerciali sono paesi che attraggono maggiormente capitali, perché questi capitali sono in realtà dei finanziamenti per poter coprire il deficit, come d'altro canto i paesi che maturano surplus commerciali sono esattamente caratterizzati da fuoriuscite per nette maggiori di capitali. Ora, una delle variabili che vedete qui, quella che rappresentiamo nel grafico sotto, ci mette a confronto diciamo le posizioni nette sull'estero, che non sono proprio la stessa cosa della differenza fra capitali in uscita e capitali in entrata, ma facciamo finta che le cose in qualche modo sono sovrapponibili, degli Stati Uniti, cioè del paese che ha maturato sempre più deficit crescenti della bilancia dei pagamenti, e mentre la parte più alta rappresenta le posizioni nette sull'estero nel periodo 2000-2021, in questo caso della Cina, che diciamo è uno dei massimi finanziatori, mettiamola così, in particolar modo dell'economia statunitense. Quello che qui si potrebbero dire tante cose, alcune magari le diremo dopo. Per esempio, una prima cosa che potremmo dire è che questa situazione che capisce bene un bambino, nel tempo va ad amplificare la distanza e quindi in qualche modo amplifica una situazione instabile dal punto di vista finanziario, okay? ha a che fare con il fatto che gli Stati Uniti sono il paese che emette la moneta internazionale per antonomasia, in particolar modo la valuta di riserva internazionale, cioè il dollaro, e che oggi noi viviamo in un mondo in cui abbiamo una valuta internazionale che al contempo è anche una valuta nazionale. Allora, questa cosa apre una serie di dilemmi di cui gli economisti sono consapevoli almeno a partire dal 1960, quando Triffin dimostrò sul piano logico, questo economista belga che poi ha lavorato negli Stati Uniti e lo dimostra di fronte a una commissione rappresentativa del governo statunitense, che se si vuole mantenere il dollaro al centro del sistema economico, questa è una valuta che non deve perdere valore, perché una valuta che perde valore, diciamo, dovrebbe essere in qualche modo poco avvezza ad essere accumulata nelle riserve delle banche centrali, ma se al contempo gli Stati Uniti provano a riassorbire il loro deficit, okay, questo genererebbe di per sé una limitazione dei dollari che dagli Stati Uniti vanno verso il resto del mondo, con il rischio che gli altri paesi comunque sostituirebbero l'uso del dollaro. Ma questa situazione ha a che fare, cioè diventa sempre più problematica da mantenersi man mano che aumenta la distanza, diciamo, tra posizione netta sull'estero passiva degli Stati Uniti e posizione netta sull'estero attiva dei paesi che indirizzano i propri finanziamenti verso gli Stati Uniti. Poi si potrebbero dire altre cose che non dico, ma questa è una cosa importante. Questa situazione di instabilità che al momento vi abbiamo provato a raccontare dal punto di vista commerciale e finanziario è un qualche cosa che ha anche a che fare col tipo di sistema monetario internazionale dollarocentrico in cui ci troviamo, che è caratterizzato da un dilemma che provoca una esigenza. Perché il dollaro continua a essere al centro del sistema, alcuni mercati devono usarlo per prezzare delle merci. Quali merci conviene che prezzino il loro valore in dollaro? Le merci che stanno a monte degli scambi internazionali, cioè le materie prime, in particolar modo il petrolio. Cosa succede se i paesi produttori di petrolio non vogliono più prezzare in dollaro la merce che loro vendono? Beh, storicamente sappiamo che questo si correla con interventi di tipo militare o da parte direttamente degli Stati Uniti attraverso forme diverse. Oggi le chiamiamo proxy war, diciamo guerre per interposto paese, mettiamola così. E infatti questa coppia di grafichetti su cui ho provato a ragionare ci mostra che man mano che aumenta la distanza tra la posizione netta sull'estero statunitense e cinese, in questo caso, ma potremmo fare lo stesso ragionamento raggruppando tutti i paesi che in qualche modo sono, consentitemi questa semplificazione, finanziatori degli Stati Uniti, cresce al contempo sia la spesa militare della Cina che la spesa militare statunitense. Il fatto che cresca la spesa militare, consentitemi questa semplificazione, aumenta la probabilità che gli investimenti militari siano in qualche modo impiegati in manovre belliche, anche perché, e questo è, poi mi dici quando mi devo fermare, è dimostrabile anche dal punto di vista quantitativo, è stato dimostrato da diversi economisti. Quando cresce la spesa militare, quando cresce in particolar modo la quota della spesa militare sul bilancio pubblico, i militari, le alte cariche militari, hanno la possibilità di decidere di più sulle politiche governative. Quindi questo ho cercato di mettere in luce così una tendenza di fondo che mette in moto dei meccanismi destabilizzanti che hanno anche delle ricadute geografiche. qui sarò telegrafico. Questa cartina mostra un progetto, il progetto cinese, che viene costruito man mano che la Cina cresce, integrando maggiormente la Cina non solo con i paesi BRICS, ma anche con altri paesi, persino i paesi europei. Questo progetto è la Via della Seta, la Silk Road Initiative, che ha, perché nonostante tutto esiste ancora, ha due vie che poi si vanno a ricongiungere, una marittima e una terrestre. Quello che balza agli occhi è che se noi andiamo a... lo vedete, insomma, penso che non abbia bisogno di descrivere dove passa la Via della Seta. Ora, quello che balza agli occhi è questo. Qui ho ripreso i paesi, quelli in rosso e il rosso più chiaro, sono i paesi che sono stati colpiti o da situazioni di guerra guerreggiata o da situazioni di destabilizzazione politica riconducibile o alla Francia o agli Stati Uniti in Africa. E sopra vedete lo scenario invece della guerra russo-ucraina. Ora, si tratta esattamente di luoghi che determinano dei passaggi fondamentali, soprattutto per l'integrazione dell'economia, chiamiamola cinese, ma in realtà è un progetto internazionale alternativo a quello atlantico, con in particolar modo i paesi dell'Unione Europea. Ma le guerre che stiamo vivendo, a partire quantomeno dalla guerra in Siria, passando per la guerra russo-ucraina, le varie guerre dimenticate in Africa che potete vedere qui, e persino la destabilizzazione medio orientale, sono tutti pezzi, nella mia lettura, di una probabile strategia volta a far fallire un progetto di integrazione tra dei pezzi di mondo in cui era coinvolta la stessa Unione Europea. Esiste, non approfondirò il punto, una chiara convergenza di interessi fra il Next Generation EU, che forse alcuni di voi ricorderanno, e la Silk Road Initiative. Okay? La transizione, mettiamola così, un pezzo della Next Generation EU, la transizione verde, non era possibile da realizzare senza la fornitura cinese, dove per Cina non intendo solo lo Stato della Cina, ma tutto l'impianto dell'integrazione commerciale con Cina in testa, Federazione Russa, India e altri paesi di BRICS, come dire, compresi i paesi medio orientali, collaboratori. Terza tappa, quindi, come si colloca il nostro paese in questo scenario? Il nostro paese vive uno shock più di altri, analogo a quello della Germania, nel momento in cui si interrompe questo processo di integrazione. Vi è uno shock molto chiaro, leggibile sul livello dei prezzi, evidentemente, rinvio al professor Romaniello per approfondimenti sull'inflazione, ma soprattutto sta provando in un modo eterodiretto, molto eterodiretto dagli interessi atlantici e israeliani, a rispecializzarsi per sostenere le proprie esportazioni in un modo pericoloso. Due dati: nel 2024 le aziende italiane hanno esportato armamenti per un valore di 6,5 miliardi di euro, l'incremento rispetto all'anno precedente è del 35%. Altro punto sostanziale è che alcuni settori del manifatturiero, cioè alcuni settori, alcune imprese leader del settore manifatturiero italiano vanno riconvertendosi in senso militare. Fincantieri sta riconvertendo due impianti produttivi, per ora impiegati in attività civile, e uno è il cantiere di Castellammare di Stabia. L'obiettivo è trasformarli in asset strategici per la produzione di navi militari e sistemi navali avanzati. Piaggio Aeronautica di Albenga recentemente è stata rilevata da un gruppo turco che ha riconvertito la produzione in droni. Ma ultima informazione per voi, l'Italia sta dando un importante contributo a Israele, quintuplicando le sue importazioni di armi da Israele, come si legge nella relazione annuale sulle esportazioni dei materiali di armamento inviata alla Camera dal governo nel marzo 2025. Rispetto al 2023, nel 2024 Israele sale dalla settima alla seconda posizione come paese di provenienza, con 42 autorizzazioni per un valore di 155 milioni di euro, incidenza del 20% sul totale. Comprando queste armi, l'Italia finanzia direttamente il complesso militare industriale israeliano. E mi sono limitato a tre punti, potrei continuare, non ho parlato di Leonardo. Concludo, l'origine del mio ragionamento, che ci conduce a queste considerazioni abbastanza traumatiche, è che gli squilibri finanziari, che abbiamo approfondito solamente su alcune questioni, ce ne sono altre che meriterebbero un approfondimento, magari poi ci torniamo, se non vengono risolti, spingono il mondo verso non solo guerre commerciali, e ne avevamo tanto il sentore, bastava vedere le pressioni protezionistiche che dagli Stati Uniti provenivano, non solo durante la seconda amministrazione Trump, ma a partire dalla seconda amministrazione Obama, passando per la prima amministrazione Trump e anche nell'amministrazione Biden, e che oggi vengono posizionate al centro dei media quando già le vacche sono scappate dalle stalle, anche i buoi. Pertanto io credo che un ripensamento del sistema monetario internazionale sia importante. Il sistema monetario internazionale dollarocentrico è uno dei motivi che conduce a situazioni di instabilità finanziaria che si traducono anche in instabilità politica e in guerre vere e proprie. Questa cosa, e con questo concludo, in parte era già molto chiara alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando si provò a costruire un sistema monetario internazionale basato su regole che evitassero le spinte destabilizzanti dei movimenti di capitale e che mantenessero non tanto una stabilità di una valuta di riferimento, anche se già lì poi le cose erano cominciate maluccio, con la scelta comunque della convertibilità del dollaro nell'oro a 35 dollari l'oncia, ma costruito su cambi fissi fra tutte quante le valute. Ma in realtà pochi al di fuori degli economisti sanno che esisteva un progetto alternativo, e l'aveva pensato il più grande economista che probabilmente, almeno dal mio punto di vista, ha calcato questa terra, quantomeno nel Novecento, John Maynard Keynes. Questo sistema si chiamava International Clearing Union e si fondava su una vera moneta internazionale che aveva la caratteristica di essere in qualche modo gestita da una banca internazionale in modo tale da essere distribuita proprio con l'obiettivo, alla fine, diciamo, dell'anno commerciale, di ridurre gli squilibri commerciali, cioè agevolando non solo i rientri dai deficit commerciali, ma anche cercando di non far accumulare surplus in eccesso, anche imponendo tassi di interesse negativi a chi accumulava surplus in eccesso. Sembrerebbe una cosa appartenente al terreno dell'utopia, ma se ne parla più di quanto possiate pensare, soprattutto tra i BRICS. Voglio concludere non proprio rispondendo alla domanda che mi ha fatto Francesco, ma implicitamente sì. È vero, le guerre si combattono sempre. Probabilmente non tutte le cose che ho detto sono sufficienti ad analizzare tutti gli scenari di guerra, ma io faccio l'economista e diciamo intendo il mio intervento come complementare a quello di Alberto Negri, che come sempre ascolto imparando moltissimo. Però penso anche che se la riflessione sul diritto alla pace ha un senso, deve partire da alcuni punti fissi, da alcune considerazioni. Io credo che queste considerazioni sui nessi tra gli squilibri finanziari e le conseguenze anche sul piano bellico possano aiutare tanto chi crede ancora nella diplomazia internazionale, chi crede ancora nel diritto internazionale, anche per rendersi conto che quando sarà, e spero che sarà il prima possibile, aperto un tempo in cui il diritto internazionale non verrà più violentato da fantomatici Board of Peace, ma sarà di nuovo ricostruito sull'esigenza non di esaltare lo scontro di civiltà, ma di trovare un piano di confronto. Ecco, in questo piano di confronto, se non si parla anche della moneta internazionale, allora si rischia di rimanere nell'instabilità politica. Grazie. Beh, allora le conclusioni del professor Lucarelli vanno nella tua direzione. Viene richiamato il Board of Peace, il ruolo del diritto internazionale come elemento mitigatore di tensioni. Questo lo riportiamo ancora ineluttabile, su questo siamo ancora abbastanza d'accordo, e parlacene un po', se poi, insomma, è ovvio che la tematica è talmente ampia, a partire dall'articolo della Costituzione che già citavo, per l'Italia che ripudi la guerra, quindi è uno spazio di espressione molto ampio. Grazie Pasquale, a te la parola. No, grazie a voi. A me sembra che questo tipo di seminari e di sforzi sia fondamentale, perché parlare della pace, come ho cercato di parlare io in gli ultimi lavori, eccetera, senza tener presente queste prospettive, fondamentalmente non ha molto senso, questa è la verità. E che quindi questo seminario potrebbe essere, diciamo, anche il punto di partenza di una riflessione comune da depositare possibilmente per iscritto, non a partire dai suoi contenuti, ma a partire, diciamo, dalla comunità di riflessione che in esso vengono svolte in questa direzione. Allora, io ho letto molto, diciamo, un po', lo diceva Stefano Spizzichi, il suo libro, cercando di capire però i punti fondamentali, e credo più o meno di averli afferrati, ed oggi forse ancora meglio. Ci verrò nell'ultima parte del mio intervento, che riguarderà a che cosa può essere utile il diritto internazionale per realizzare la pace, come si può fare. È chiaro che devo ritornare a quello che dice lui in ultimo. Allora, innanzitutto, noi quando parliamo di diritto internazionale, di che cosa parliamo? Scusatemi, premessa necessaria, anche se forse fastidiosa. Che cos'è che è in crisi oggi? Non è in crisi il diritto internazionale degli spazi aerei, non è in crisi il diritto internazionale delle telecomunicazioni, non è in crisi il diritto internazionale dei trasporti, non è in crisi il diritto internazionale, anche forse questo un pochino di più, della salute pubblica, va bene? Quello che è veramente in crisi è costituito del diritto internazionale, è costituito dal nucleo dei suoi principi fondamentali. Allora voi mi potreste dire, ma allora però tu parli dei principi fondamentali, non è una banalità, cioè non è una cosa strana. il diritto costituzionale nazionale, cioè i principi fondamentali di un ordinamento, si sono giuridificati solamente nell'ultimo secolo, praticamente. Chiaro? Ancora di più si sono giuridificati sotto forma di costituzioni rigide assistite da custodi, dalle corti di costituzionali solamente nell'ultima parte del Novecento, ok? E molti dei principi fondamentali delle costituzioni statali non sono attuati o sono attuati in forme diverse e in proporzioni diverse a seconda dei momenti storici. Quindi il fatto che siano in crisi i principi fondamentali dell'ordinamento internazionale, cioè quelli che esprimono la dimensione politica di questo ordinamento, non deve stupire, se non i cretini, cioè quelli che non guardano bene a quello che succede negli ordinamenti nazionali. Quali sono questi principi? Perché l'individuazione di questi principi serve a metterci in contatto sia con Alberto Negri che con Stefano Lucarelli. Essenzialmente, è ovvio, il principio del divieto dell'uso della forza armata nelle relazioni internazionali. In secondo luogo, è altrettanto ovvio, direi, il principio di autodeterminazione dei popoli, cioè il diritto dei popoli soggetti a dominazione esterna a non esserlo e a non essere neanche soggetti a dominazione di governi stranieri. Aggiungerei, attenzione, alla luce della bellissima carrellata fatta da Alberto Negri, purtroppo anche il principio della sovranità nazionale, cioè il fatto, è una cosa che mi è venuta in testa ora, il fatto che, cioè se volete il diritto alla statualità, principio dell'uguaglianza sovrana è sancito anche dalla Carta delle Nazioni Unite, il fatto che alcuni stati siano stati sostanzialmente disarticolati, come l'Iraq, come la Siria. La Siria, Alberto Negri ci ha ricordato, forse ci hanno fatto pure un accenno Stefano, comunque ci ha ricordato che nel mentre i coglioni, scusatemi occidentali, guardavano a rifarsi il look da parte del Giolani, credo si chiami, che andava poi a Washington, che veniva lì, nel mentre tutti i media occidentali erano concentrati su questa emerita stupidaggine, succedeva che Israele A. si riappropriasse di larga parte del Golan, B. distruggesse tutto l'apparato militare, cosa che era già stata fatta dagli Stati Uniti in Iraq. Ora, questi stati non è che si siano formalmente disarticolati, ma non esistono più come stati, ha perfettamente ragione Alberto Negri, che diciamo, pur non avendo letto Quadri, per dire, o Schmitt, sicuramente esprime meglio di tanti che hanno letto questi autori. Ok? Il terzo principio è quello del divieto di violazioni gravi, massicce e sistematiche dei diritti dell'uomo, anche a mo' di reazione a violazioni, per esempio, del divieto dell'uso. Tutto questo è logico, è naturale, è sotto i nostri occhi. Però attenzione, perché questi principi sono in crisi? Guardate, non è il fatto che siano violati. È chiaro, la violazione del diritto penale, le violazioni del diritto penale che si stanno realizzando in questo momento, tra l'altro, mentre io sto parlando, saranno centinaia di migliaia, di queste centinaia di migliaia probabilmente saranno accertate e punite 20.000, ok? Non è il fatto che le violazioni vengano commesse, tanto più in un ordinamento che per i suoi principi generali ha caratteri consuetudinari, va bene? E cioè è fondato sulla consuetudine. La consuetudine che cos'è? Una fonte del diritto secondaria, diciamo così, negli ordinamenti statali, ma primaria nell'ordinamento internazionale, fondata sulla, qui semplifico moltissimo, sulla presenza di un comportamento univoco e ripetuto nel tempo da parte di maggior parte, diciamo così, degli stati, anche qui semplifico moltissimo, accompagnato dalla opinione della sua giuridicità. Allora, qui il problema non sono le violazioni. Il problema grave sono le non reazioni alle violazioni. Gravissimo. Ma anche questo è in linea con quanto ci diceva Stefano. Che cosa assistiamo? Assistiamo a un'Unione Europea, tanto per venire nel nostro, diciamo, spaccato, che è muta di fronte a come lo vogliamo chiamare, genocidio, crimini contro l'umanità, quello che è successo a Gaza, che non ha fatto nulla, bastava pochissimo per colpire Israele, bastava pochissimo, anche che due o tre stati, diciamo, limitassero l'interscambio commerciale. Non sono riusciti, per l'opposizione degli stati, bisogna dirlo, neppure a sospendere l'accordo di associazione. Ma questo perché? Perché l'Unione Europea è schierata a fianco e senza tentennamenti della reazione americana allo stato delle cose che Stefano ci ha prospettato per quanto riguarda l'aspetto economico, finanziario e monetario. È chiaro? Non c'è altra ragione che questa. Cioè il venir meno delle reazioni, a parte delle classi dirigenti, diciamo, come dire, che dire a fasi che sul piano, diciamo, dell'immaginazione politica è poco. Noi siamo, diciamo, di fronte purtroppo a un abisso, no? Culturale e etico. Ma vabbè, questo è dire cose che tutti quanti sanno, ma che però sono presenti. Ma proprio perché ci si è allineati. Ci si è allineati già, era chiaro già con l'Ucraina, era chiarissimo, chiaro. Era chiaro già per quanto riguarda l'Italia, quando questa signora è andata, questa signora che abbiamo ora è andata al governo, che ha diciamo immediatamente tagliato il rapporto con la Cina, iniziativa che era stata assunta dal precedente governo e che è stata, diciamo, affiancata da molti altri paesi, non so quanti in Europa avessero preso parte a questa iniziativa, ma per l'Italia sicuramente questo si è verificato. Quindi questo fenomeno, che attenzione, non si è ancora del tutto verificato, proprio perché il diritto è consuetudinario, quindi ha bisogno di tempo, che è un processo di decostituzionalizzazione possibile, se non probabile, dell'ordinamento con riferimento a questi principi, si collega strettamente al quadro disegnato da Stefano Lucarelli. Non è una cosa, diciamo così, che è aerea, ok? Perché? Perché c'è una solidarietà di fondo molto forte nei confronti della reazione statunitense al quadro che lui ci ha tracciato nel punto secondo, nei punti secondo e terzo della sua esposizione. È chiaro? Questo è quello che sta succedendo. Attenzione, la decostituzionalizzazione del diritto internazionale, il processo in corso, è esattamente parallelo alla decostituzionalizzazione di alcuni ordinamenti statali. Prendiamo per esempio gli Stati Uniti, no? Ma poi parlerò anche un secondo dell'Italia. Negli Stati Uniti che cosa si è verificato? Non l'ho detto io, ha detto la Corte Suprema di recente, che un presidente degli Stati Uniti abbia preso una norma interna che riguardava l'esercizio di poteri presidenziali in stati di eccezione, tra i quali proprio, tra l'altro, squilibri, diciamo, però momentanei ed improvvisi della bilancia dei pagamenti, e l'abbia utilizzata per comminare dazi alla Cina e anche agli altri paesi. Questo naturalmente in contrasto con regole di accordi internazionali, ma quel che più conta è in contrasto, per quello che volevo dire, con regole costituzionali fondamentali dell'ordinamento statale. Non solo, questo processo di decostituzionalizzazione dell'ordinamento statunitense sta avvenendo, anche qui noi siamo pieni di imbecilli, ma proprio strapieni, guardate. Allora, la sentenza della Corte Suprema, allora, ha tenuto l'ordinamento? No, non ha tenuto un bel niente, non terrà e non ha tenuto. Perché? Perché quello che conta è l'attuazione concreta del dictum della Corte Suprema, e una grande quantità di atti dichiarati illegittimi tanto dalla Corte Suprema che da corti federali o statali, che emettono quelli che nel diritto pubblico statunitense si denominano contempt of court, non vengono attuati. Chiaro? Quindi questi dicta rimangono così, galleggianti, perché? Perché l'autorità che è preposta, le autorità che sono preposte all'attuazione concreta dipendono dal Dipartimento della Giustizia, cioè leggi dall'esecutivo, e quindi traccheggiano. Su questo io non posso fare un richiamo, diciamo, testuale, perché sono notizie che mi vengono da una pubblico comparatista che non mi ha, che si chiama Elisabetta Grande, che però non mi ha mandato più, diciamo, i documenti da cui ho incontrato i decenni, però poi ve li faccio avere, glieli chiedo, ve li faccio avere. Quindi vedete di che cosa parliamo? Cioè, noi parliamo della morte del diritto internazionale, ma scusate, ma dovremmo parlare del cambiamento, diciamo, a volte effettuato con tentativi goffi di tipo formale, di destrutturazione del diritto costituzionale nazionale, e di cambiamento in corso, in itinere, del diritto internazionale nei suoi aspetti fondamentali. Cioè, c'è una tendenziale perfetta omologia. Andiamo a quello che ci ha detto Stefano sull'interscambio commerciale in materia di armi tra l'Italia e Israele. Tutto questo è fuori dalla Costituzione, e non solo è contrario alla legge 185 del 90, va bene, ma è fuori dalla Costituzione, perché la guerra condotta da Israele non è una guerra di legittima difesa in senso stretto. Quindi noi non possiamo, tra virgolette, appoggiare in modo diretto o indiretto quella guerra. Perché? Perché essa non si configura come l'unica ipotesi di eccezione al divieto dell'uso della forza armata, e quindi come l'unica ipotesi in cui uno Stato terzo può appoggiare uno Stato che usi la forza armata. Chiaro? Lo stesso, il comportamento dell'Italia riguardo, come i comportamenti di parecchi altri Stati, per esempio la Germania, riguardo all'interscambio militare con Israele, è con ogni probabilità contrario agli obblighi di prevenzione che scaturiscono dalla Convenzione sul genocidio. Ok, questa è una forma di illiceità del comportamento internazionale dello Stato, ma anche di incostituzionalità del comportamento degli organi costituzionali dello Stato, che non danno esecuzioni a norme che sono introdotte nel nostro ordinamento e che hanno anche una crisma di carattere costituzionale, perché corrispondono con ogni probabilità a obblighi di carattere generale, di diritto internazionale generale. Quindi vedete che c'è una perfetta omologia. Questa omologia si spiega ancora una volta per le rationes dei comportamenti, quindi qualcosa di extragiuridico, per così dire, che va nel senso, per quello che abbiamo sentito oggi, delineato da Stefano. Allora, fatte queste precisazioni, io vengo al punto finale e poi, se Dio vuole, diciamo, apriamo il dibattito. Cosa si può fare oggi per, ed è una cosa urgentissima, perché se è vero, come io credo sia vero, quello che ci viene detto tanto da Alberto Negri che da Stefano Lucarelli, è la guerra, è questione di tempo, non di... Non siamo più a discutere del se, ma del quando, perché questa lotta, diciamo, esistenziale, a un certo punto, diciamo, può o sembra destinata a trasformarsi in guerra che ci potrebbe coinvolgere assolutamente. Voi pensate, io non sono così sicuro che la Turchia venga attaccata, mi sembra, da Israele, mi sembra un po', diciamo, strano, perché o perlomeno non una cosa che, così come stanno le cose, si è destinato, perché la Turchia è uno stato parte della NATO, e quindi a quel punto lì, oddio, la NATO sembra essersi frantumata, ma una santificazione della sua frantumazione di quel genere non so se siamo ancora pronti a viverla. Comunque noi non saremmo in grado di difendere la Turchia. Questo non c'è dubbio. Noi non siamo in grado di difendere la Turchia da Israele. E bisogna vedere che cosa farebbe gli Stati Uniti se iniziasse un conflitto, sia pure di portata limitata, tra i turchi e Israele, come dire, animato dalla esigenza di Israele di disarticolare pure la Turchia, perché non ne frega niente a Israele di instaurare un regime, diciamo, democratico, non ne frega niente, di niente, niente, neanche agli Stati Uniti, è stato detto da Trump, ma a Israele ancora meno che agli Stati Uniti, perché è benissimo che il tentativo è quello semplicemente di annullare la statualità di certe. Questo è il punto vero, è che il quarto dei principi generali che mi viene in testa che siano in discussione in questo momento storico. Allora, cosa si può fare? Vedete, fino ad oggi i tentativi di riforma delle istituzioni monetarie internazionali sono tutti andati a vuoto, ma non solo i tentativi di riforma, ma non sono tentativi, attenzione, badate, di riforma nel senso radicale indicato da Stefano. Noi stiamo parlando semplicemente di attribuire poteri maggiori a stati che partecipano alla produzione del reddito globale in una misura che è incomparabile rispetto a quella che era prevista nel momento in cui le quote di partecipazione, per esempio al Consiglio dei Governatori del Fondo, sono state ripartite. Questo è un tentativo che è stato bloccato sistematicamente da Stati Uniti e Unione Europea. Chiaro? Non da oggi, da molto tempo. Non parliamo dei tentativi, diciamo, di riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, stendiamo un velo pietoso su questo. Allora, noi siamo in una fase in cui la comunità internazionale al suo livello interstatale è totalmente, diciamo, frammentata, ma non da oggi, anche su questo Stefano ha detto delle cose per cui io potrei, diciamo, aggiungere altre. Ma non lo faccio, non è da oggi, non è da oggi che, guardate, ma queste sono cose che note anche abbastanza ormai, che Putin, la Russia di Putin, violando il diritto internazionale, abbia invocato tra gli altri motivi la legittima difesa preventiva, esattamente il motivo invocato da Trump e da Netanyahu per l'Iran, è giustificato dalla prassi precedente. Per esempio, da quello che era contenuto nella dottrina Bush, in cui la legittima difesa preventiva veniva proprio, come dire, enumerata tra le cause delle guerre che gli Stati Uniti avrebbero potuto fare dopo l'11 settembre, naturalmente. Ma gli esempi si potrebbero moltiplicare. E il punto è che oggi questa frammentazione non è più, diciamo, come dire, nevroticamente oserei dire rinnegabile, è sotto gli occhi di tutti. Cioè oggi è chiaro e chiarissimo che non è che è colpa delle Nazioni Unite, questa è un'altra delle mistificazioni che si fanno, io non è che voglio difendere le Nazioni Unite, non me ne frega niente, neppure il diritto internazionale, non me ne importa niente, il punto è che le Nazioni Unite sono per larghissima parte un ente politico e, come tutti gli enti politici, esprimono la volontà politica costituzionale della società, no, che li sostiene, che nel caso degli ordinamenti statali si esprime attraverso i partiti politici, perlomeno tradizionalmente, e nel caso dell'ordinamento internazionale si esprime attraverso gli stati e in particolare le aggregazioni di stati attorno agli stati più potenti. Beh, quelle aggregazioni sono completamente frantumate, non da oggi, oggi ce ne accorgiamo, ma non è da oggi che questo accade. Accade perlomeno, direi, dal 1999, quando, nonostante l'accertamento dell'esistenza di crimini contro l'umanità sul territorio del Kosovo, all'epoca appartenente alla Serbia, non fece seguito un'autorizzazione all'uso della forza da parte del Consiglio di sicurezza, perché? Perché Cina e Russia si opponevano. Da allora, diciamo, più o meno questa cosa, solo che noi l'abbiamo scotomizzata, o ce l'hanno fatta ampiamente. Devo dire, in questo gli internazionalisti, quelli seri, non sono stati vittima di questo abbaglio, va bene? Allora, cosa si può fare in una situazione conclamata come questa? Cosa si può fare concretamente? Per esempio, attraverso quale canale istituzionale può passare la sacrosanta idea della necessità di sostituire la dollarizzazione del mondo, no? E quindi di cambiare nei suoi tratti sostanziali il sistema monetario internazionale? Queste sono le domande che dobbiamo porci, che non sono domande, e qui io nella stesura di questo saggio per l'ordine del mondo mi sono dovuto scontrare, diciamo, con Aldo Schiavone, perché lui da storico del lungo periodo e storico dei giuristi romani ha una visione, diciamo, della capacità del diritto di imporsi in qualche modo come strumento di regolamentazione e di pacificazione che io non so se che non corrisponde certamente alla mia. Quindi qui la questione è politica e naturalmente è anche istituzionale, perché la politica, se non, insomma, si a un certo punto si riversa in canali istituzionali, non riesce, diciamo, a incidere sui processi storici. Perlomeno questa è la storia, proprio per esempio dei due principi, perlomeno di uno dei due principi a cui facevo riferimento prima, l'autodeterminazione dei popoli, che viene fuori dalla decolonizzazione e quindi dalla lotta dei popoli soggetti a dominio coloniale, appoggiati dal blocco sovietico in una prima, diciamo, fase sicuramente, in una seconda meno, si è realizzata e ha avuto successo attraverso i canali istituzionali dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Questo è il punto. Quindi la domanda che dobbiamo farci è cosa fare? Cosa fare per rapidamente, tra l'altro, per cercare di far sì che questo processo possa in qualche modo prodursi. Guardate, il diritto alla pace è una minchiata, scusatemi la franchezza, non esiste. Chiaro, come diritto individuale, se sentite parlare del diritto alla pace e sentite parlare di umanità, come ci diceva Proudhon, non esiste. Non esiste come diritto individuale né nella Costituzione italiana né nell'ordinamento internazionale. E quindi ad altro, che non possiamo pensare di far leva su norme esistenti per realizzare un diritto alla pace. Chiaro? Se prendiamo questa strada, prendiamo una strada da imbecilli. Tante, diciamo, battaglie sono fatte da imbecilli con, come dire, perfetta buona fede e altrettanta, diciamo, perfetta imbecillità. È chiaro? Allora, cosa ci dice il presente, secondo me? Ma compreso questo referendum ultimo in Italia e comprese altre, diciamo, forme di manifestazione del politico in altri stati, ci dice che le società civili hanno delle chance di ripoliticizzazione. Questo è dimostrato, secondo me, tanto da quello che è successo nel mondo occidentale per Gaza, per la Palestina, tanto da quello che è successo, per esempio, qualche giorno fa, con questo referendum, al di là, diciamo, della sostanza. E quindi ci invita a riflettere su come queste spinte possono essere internazionalizzate in qualche modo ed istituzionalizzate. Io in questo libro, diciamo, ho ipotizzato una strada che non è nuova, ma è oggi necessaria. Perché è necessaria? Perché il livello interstatale per ora ci dice che per ricomporsi bisognerà passare per la guerra. Già questo sta avvenendo. È chiaro. Allora noi non possiamo, vedete, negli anni 60-70 le grandi lotte, quelle per l'autodeterminazione, ma poi quella che va sotto il nome di nuovo ordine economico internazionale, che ha portato, sia pure per un certo periodo, a un cambiamento sostanziale della disciplina degli investimenti stranieri in paesi importatori di capitali che originavano dal processo di decolonizzazione. E ora ho perso il filo. Insomma, comunque, queste lotte, come vi dicevo, sono state fatte all'interno delle Nazioni Unite, questo lo dicevo prima. Quindi, come si può far passare all'interno delle Nazioni Unite la spinta che è rappresentata dagli esempi, diciamo, di movimenti dal basso che si sono inverati in questo ultimo torno, diciamo, di eventi storico-politici? Io suggerisco la creazione, una cosa modesta, ma da cosa nasce cosa, la istituzione di un organo sussidiario dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che prenda questi, che sia in grado, diciamo, di costituire un volano a livello internazionale dentro l'Organizzazione delle Nazioni Unite per queste spinte. Non è una cosa non fattibile, perché l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ringraziando Dio, non è completamente soggetta né ai vincoli istituzionali propri del Consiglio di Sicurezza e neppure alla preponderanza delle grandi potenze. E qua, quando dico grandi potenze, ci metto anche la Russia, cioè ci metto tutti gli stati dotati del diritto di voto. Però io qui sinceramente mi fermerei, perché anche altre cose potrebbero essere dette, qualcuna me ne è venuta in testa, per esempio la utilizzazione dei contrappesi costituzionali nazionali in funzione anti, diciamo, anti-eversione. Prendete per esempio il Board of Peace, no? Il Board of Peace è una cosa che sta dentro, purtroppo, una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Prima che si costituisse come si è costituito il Board of Peace. È chiaro? E allora, a livello Nazioni Unite, stante questo e stante il fatto che le Nazioni Unite nulla possono fare in tema di conclusione di accordi da parte degli Stati, quello è un accordo istitutivo di un'organizzazione internazionale, assurda, sui generis possiamo discutere, ma tale è formalmente. Allora, dov'è che la spinta può nascere? Proprio dal livello, l'abbiamo visto, a livello costituzionale, no? Ora, la nostra Presidente del Consiglio ha utilizzato il livello costituzionale per scusarsi col suo alleato, col suo, diciamo, dante causa internazionale, fondamentalmente. Ma in realtà la sostanza del nostro ordito costituzionale, così come la sostanza dell'ordito costituzionale di molti Stati europei, se non tutti, impedisce la partecipazione a questo benedetto organo. Perché? Perché questo è tutto orwellianamente, salvo che quello che il suo nome dice. È chiaro? Ed è evidente, no? Il suo presidente ha scatenato una guerra d'aggressione. Dove l'ha scatenata? Ancora una volta, ha perfettamente ragione Stefano, porre l'accento sulla dislocazione geografica di questo tipo di guerre. L'ha scatenata contro l'Iran e la scatenerà ancora, ha contribuito a scatenarla contro Yemen, ha minacciato di scatenarla, guarda un po', contro la Nigeria, guarda un pochino, c'è il Sudan che dove si massacrano, no? Non da oggi, però è la Nigeria. Beh, insomma, non ne devo dire a voi perché. Quindi anche l'azione, diciamo, di supporto dei valori costituzionali, anche qui non è facile trovare, qui ci sono molti colleghi giuristi, poi possiamo discutere delle technicalities, delle strade attraverso i quali individui possano, come dire, direttamente far valere questi valori costituzionali, ma la ripresa di una forte, diciamo, azione politica di sostegno dei valori costituzionali, questa è chiaramente possibile. Dunque, ecco, questi sono i piani. In entrambi i piani è la politica quella, la dimensione in cui bisogna agire, sia il piano internazionale che quello costituzionale interno. Perché? Perché non ci sono ancora degli strumenti giuridici perché non so se sia opportuno che si creino, perché queste spinte vengano, diciamo, veicolate davanti a corti internazionali, e neanche, direi, è piuttosto difficilmente anche davanti a corti costituzionali nazionali, dove però forse il discorso è meno, diciamo, complicato. Va bene? Ringraziamo Pasquale De Sena. Devo dire che non avevo idea di come potesse andare, ovviamente, questo tipo di relazione così multidisciplinare. Io, se me lo permette il collega Menga, la riassumerei come un magnifico esercizio dialettico struttura sovrastruttura, riprendendo le parole sia di Stefano che di Alberto Negri, ovviamente anche di Pasquale. Le questioni sono veramente tante. Io gradirei lasciare a voi lo spazio per qualche domanda, senza esagerare, ovviamente. Cerchiamo di fare domande più che considerazioni, altrimenti il dibattito poi ci porta troppo avanti col tempo e nello spazio. Però prima di farlo, so che tu hai una domanda, poi io le prendo io le domande che avete, volevo anche io proporre dei quesiti, delle considerazioni, perché ovviamente le questioni sono veramente plurime e le prospettive mostrate, come già anticipavo, permettono dei ragionamenti che vanno un po' oltre, no, quello che è stato detto sino adesso, perché io condivido la grandissima parte delle cose che sono state dette, immagino anche chi è qui con noi. Mi è piaciuto molto l'idea della decostituzionalizzazione dal punto di vista internazionale e interno, che secondo me non è tra l'altro una novità, perché l'abbiamo già vissuta, magari noi non direttamente come anagrafe, ma i nostri nonni, i nostri bisnonni, proprio un secolo fa o forse qualcosina in più, e questo un po' mette a nudo, secondo me, vorrei magari poi successivamente, dopo che raccogliamo le domande, una risposta da parte di entrambi, il fatto che questa equivalenza, questo binomio, questa equazione capitalismo uguale democrazia è venuta un po' meno, perché poi la decostituzionalizzazione degli ordinamenti internazionali e interni mostra un autoritarismo crescente, come se lato struttura la crisi economica mondiale dal lato occidentale potesse essere gestito lato strutturale da delle forme che non assomigliano neanche lontanamente a quelle che secondo me giustamente venivano collocate all'interno di una definizione di democrazia borghese, quindi dove la democrazia poteva essere anche qualcos'altro. Ultima considerazione, poi lascio a voi le parole. Secondo me bisogna tener conto dei rapporti di forza quando, giustamente, come Pasquale ha proposto, bisogna fare un passo in avanti, cioè cercare anche delle soluzioni dopo aver individuato tanti aspetti multidisciplinari di una realtà che obiettivamente fa paura a tutte e a tutti. Però i rapporti di forza un po' mi ha ricordato il periodo della Seconda Guerra Mondiale, prima della Prima Guerra Mondiale, perdonatemi, quando ci fu il fallimento della Seconda Internazionale. Ricorderete probabilmente quando i partiti socialisti, comunisti in generale, dei lavoratori, non decisero di allearsi ma furono fagocitati dai vari nazionalismi, ragione per cui i rapporti di forza non si materializzavano perché nessuno si immedesimava in altro che non fosse lo Stato-Nazione, e quindi tutto quello che si era sviluppato con la Prima Internazionale, quindi l'identità di classe, la coscienza di classe, venne meno come denominatore per creare un fronte veramente unico e unito contro le volontà di guerra, che almeno a me pare, dalle relazioni che sono state fatte da loro e anche da Alberto Negri, sia una questione, riprendo le parole di Alberto Negri, tra l'altro che ha citato anche in parte Stefano, servono affinché ci sia una riaffermazione dell'egemonia del dollaro, posso dire questo, degli Stati Uniti d'America, ma evidentemente se c'è bisogno di una riaffermazione c'è qualcun altro che sta divenendo egemone, e anche qui le parole sinteticamente riportate da Stefano, cioè la Cina e tutti quelli che gli stanno intorno, e dunque a me pare ancora una volta che la guerra, anche qui le citazioni non le so fare, ma ricordo bene quello che diceva Becht, è un affare in cui sia tra i vinti che tra i vincitori chi perde è il popolo, e diciamo che questa è la cosa che dovremmo ovviare, ma per farlo dobbiamo identificarci. Direi che ci fermiamo qui. Ringrazio ovviamente i relatori, chi ha partecipato, chi ha stimolato il dibattito. Grazie ancora e buona giornata a tutti. Caffè Cornetto con Peppe e Chicco, a cura della redazione di Radiograd.